Sono rientrato qua, che è tranquillo. Ma non ti piace. cioè era, come vuol dire, la mia coglia era tranquilla, insomma, di testa, non so quanto. Sì, ma tutti ci spaventi per ogni cosa, là, non sempre si è male di testa, viene appena. Proprio da mandare a mangiarmi la pizza che è pronta, se dovesse entrare Salvini, lui te ne sta mangiando la pizza e fai un po' quei tre. Ma non è lucida. E a forse. Ah, ok, dai. Buona carica, se entra Salvini poi già ti lo conferma, va. C'è un rumore fortissimo che non lo sento a parchetto. Fate via Luca. Vabbè, un segnale, ma non so chi è. Fate se tu non ti sento, c'è un rumore. Ah! Un rumore qua in zona, la parte mia, no, la parte tua. Non è che stai facendo male tu, è qua in zona, sei qua un macchinario. Mi fa rientro al baracchino, non so. Kappa, se ne senti, salutoni Luca, dai. E già ti do conferma, se entra a modale.